La comunione fraterna è uno dei rapporti più difficili da gestire e lo dimostrano le varie separazioni che avvengono in seno alle numerose comunità. La cosa potrebbe anche essere sottovalutata se non fosse per l'avvertimento dato da Gesù ai suoi seguaci che negli ultimi tempi, cioè i nostri, molti si allontaneranno dalla verità, si tradiranno e si odieranno a vicenda. E poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. MT 24.1012. Dunque non vi sono grandi prospettive di pace e di serenità. Ma tutto questo non scoraggia chi ha posto una vera fede in Cristo e ama i figli di Dio. Per cui è più che opportuno fare alcune riflessioni in merito a come sia possibile avere dei buoni rapporti fraterni. E per non dilungarmi mi limito a prendere in esame 10 aspetti fondamentali. 1. Non tutti crede Nuovo Testamento I possiedono la stessa QUA Nuovo Testamento di fede meno RM 12.3. Per la grazia che mi è stata data dico a ciascuno che si trovi fra voi di non stimarsi oltre ciò che bisogna pensare ma di nutrire una stima saggia di sé, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Per vivere una serena comunione fraterna occorre innanzitutto accettare che non siamo uguali non solo dal lato fisico e anagrafico, ma anche dal lato spirituale, cioè per quello che riguarda la fede. La parola fede nella Bibbia ha più significati e in questo caso ci sono credenti che hanno uno spiccato desiderio di approfondire problematiche scritturali, di fede e di vita, mentre altri sono appagati solo nel vivere una vita corretta e altruistica, senza porsi tanti interrogativi. Un rapporto sereno è possibile solo se ogni credente si muove nell'ambito delle proprie competenze. Così il semplice credente rispetterà e accetterà ciò che dirà lo studioso delle scritture, mentre chi studia dovrà ascoltare molto attentamente chi, per inclinazione, è pio, puro o retto. SL 18.25. Quando Pietro ordinò sia ai diaconi sia ai conduttori di rivestirsi tutti di umiltà, voleva proprio dire questo: sia chi comanda e sia chi ubbidisce deve riconoscere nell'altro l'opera di Dio. Perciò la stima di se stessi deve essere valutata, paragonandosi al corpo di Cristo. Nessuna esaltazione, nessuna depressione, ma una visione che scatena un grande desiderio di servire Cristo nel mettere il proprio dono al servizio dei fratelli. 2. Non tutti i crede Nuovo Testamento i comprendono nello stesso modo la parola di Dio, 1 Co 13.12. Proprio perché i credenti possiedono una quantità di fede diversa, va da sé che vi siano differenze anche nella comprensione della parola di Dio. Perciò ognuno dovrebbe accontentarsi di quello che comprende. È molto significativo come Agostino di Ippona abbia tradotto, circa 1700 anni fa, ciò che Paolo ha scritto in Romani 12.3 e che dovrebbe parlarci. Io dico a ciascuno di voi di non voler sapere più del necessario, ma tanto che basti, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Città di Dio 531. Non è raro che ci siano credenti che pongono seri problemi ad una sana e serena comunione fraterna per un'ostinata interpretazione di un testo biblico, dimenticando che la sapienza che viene dall'alto, prima è pura, poi pacifica e mite, dici 3.17. I più delle volte il credente meno per una buona armonia fraterna meno deve tenere per sé le proprie convinzioni come atto di amore, RM 14.22. Pochi hanno compreso che l'importante non è esporre le proprie idee, ma che la comunità sia unita. 3. Ogni crede Nuovo Testamento e agisce secondo la propria coscienza e di conseguenza CSI comporta in modi diversi. Ro 14.2. Uno dei più bei brani scritti in merito alla comunione fraterna si trova certamente nella lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 14. In esso ha scritto: l'uno crede di poter mangiare d'ogni cosa, mentre l'altro, che è debole, mangia solo legumi. I credenti della nascente Chiesa non avevano tutti lo stesso comportamento, per cui uno mangiava in un modo, un altro in modo diverso. Questa diversità creava problemi per dei rapporti sereni, così c'era chi condannava e chi criticava. come è difficile essere convi Nuovo Testamentoi di fare una cosa giusta. Me Nuovo Testamento rei mio fr Antico Testamento e llo, pur facendone un'altra. Non è nel torto. Non si parla di dottrine, certamente, ma di comportamenti che sono opinabili e soggettivi. Per comprendere questo, bisognerebbe solo pensare al recente passato, quando alcuni credenti ritenevano sbagliate certe cose, come ascoltare la radio, guardare la televisione e, per le donne, mettersi il rossetto sulle labbra o vestire con i pantaloni. Queste cose non ci dicono nulla? Purtroppo, come disse qualcuno, la storia ci insegna che non ci insegna niente. Ma deve proprio essere sempre così. Chi è saggio e ama Dio si lascerà modellare anche da una mente rinnovata, RM 12.13, e non solo da un cuore nuovo. 4. Nessuno può imporre ad un altro una propria Nuovo Testamento prestazione scritturale. Rocchiexu lo. 14.14. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ognuno ha le sue convinzioni in merito a ciò che è bene o male, questo è positivo e doveroso. Il male subentra quando, con accanimento, si vuole imporre ad un altro la propria morale. L'Apostolo Paolo, che aveva una conoscenza certamente invidiabile, disse ai credenti di Roma: «Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è immonda in se stessa, ma chi stima qualche cosa immonda, per lui è immonda». Paolo aveva le sue convinzioni, eppure rispettava e accettava che un altro potesse essere d'opinione diversa, dichiarando che per lui, ossia per l'altro, era giusto come la pensava. Nessun giudizio, nessuna condanna, nessuna imposizione, nessuna guerra di opinioni. E... saggio vivere in armonia con la propria coscienza, come è saggio che gli altri vivano in pace con se stessi. La diversità deve essere vista come un arricchimento e non un contrasto. 5. Nel caso di vedute diverse l'importa Nuovo Testamento è cercare di non essere occasione di caduta dell'FR Antico Testamento e LLO, RO 14.13. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Spesso una ragione per cui non ci è una vera comunione fraterna è dovuta al fatto che si pensa più a se stessi che agli altri. Questo, detto in altre parole, è mancanza di amore. Quell'amore che si interessa dei bisogni degli altri quanto i suoi. Piuttosto di condannare il comportamento altrui, il credente è chiamato a valutare la sua condotta personale perché non sia di ostacolo per la crescita di altri fratelli in fede. Infatti, il comandamento per eccellenza di amare il prossimo come noi stessi non si riferisce solo a fargli del bene, ma ha implicito anche il non fargli del male sotto qualsiasi forma. È evidente che ingiuriarlo, maledirlo, calunniarlo, tramare dei tranelli sono atteggiamenti sbagliati. Ma è pure sbagliato comportarsi con coscienza e profonda convinzione e produrre turbamento morale al prossimo. Non è sufficiente vivere basandosi sulla propria coscienza, ma occorre tenere presente anche quella dell'altro. Chi non fa questo viene meno al primo e grande comandamento rivolto al prossimo. 6. Nella Chiesa i crede Nuovo Testamentoi sono chiamantico testamentoi a di avere un unico obiettivo, quello del non far valere i propri diritti, a agire con umiltà, Phil 2.5. Uno dei brani biblici più conosciuti è certamente quello che si trova nella lettera ai Filippesi, brano, del resto letto anche per televisione in occasione dei funerali delle vittime del terremoto, dell'Aquila, avvenuto nella primavera del 2009. Per il suo contenuto morale e teologico può essere letto in qualsiasi occasione. Il brano è il seguente. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non ritenne rapina l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e, trovato nel esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. In una società democratica nella quale i diritti sono sacrosanti e si fanno valere ad ogni piè, sospinto, una ingiunzione del genere è una nota stonata. Cristo, quando venne sulla terra prendendo forma di uomo, era cosciente di essere Dio e in quanto tale poteva agire come voleva. Ma aveva un obiettivo da raggiungere e da portare a termine, quello di riscattare l'umanità dal potere di Satana e condurla al Padre. Per questo obiettivo, tentato da Satana, rifiutò di trasformare i sassi in pane. Quando ebbe fame, rifiutò di compiere il volere del suo avversario, rifiutò gloria e onori dagli uomini. Accettò spontaneamente ogni tipo di sofferenza e la morte ignominiosa della croce, ma soprattutto non fece valere nessun diritto pur di compiere il suo mandato. Solo in questo modo è possibile vincere ogni tipo di prova. Così, se il credente ha l'obiettivo di una buona, armoniosa comunione fraterna, sopporterà ogni cosa, riterrà più importanti i diritti degli altri che i suoi, stimerà i doni del prossimo più dei suoi, farà a gara a rendere onore a chi ne ha il diritto, cercherà di compiacere al prossimo nel bene, perdonerà senza nessuna fatica, pensando quanto misericordioso è stato il Padre Celeste nei suoi confronti, servirà la fratellanza come Cristo ha servito il prossimo. Ma, soprattutto nel considerare il comportamento di Gesù, farà ogni cosa senza mormorare, senza dispute, tenendo alta la parola della vita. Con questo obiettivo di umiltà la Chiesa viene edificata e il corpo di Cristo rafforzato. Un buon rapporto fraterno non nasce spontaneamente come la zizzania, ma è sempre il risultato di gente che svuota se stesso ogni giorno con amore. Segreti nascosti non ve ne sono. 7. In caso di disaccordo di Nuovo Testamento e interpretazione scritturale, i crede Nuovo Testamento e chiamantico Testamento a agire con dolcezza e rispetto, e con Nuovo Testamento ribuire alla pace e alla reciproca. Edificazione, Rom 14.19. È molto difficile cambiare le proprie convinzioni scritturali, ancora più difficile ritenerle sbagliate. Per cui è invitabile che quando ci si confronta con altri si parli con una certa sicurezza e si cerchi di dimostrare che l'altro ha torto. Da un certo punto di vista umano è normale e lecito, perché se tutti pensassimo di aver torto non si arriverebbero a scoprire quelle verità così utili nel campo della scienza e in altri settori della vita. Perciò, quello che viene chiesto al credente non è pensare di aver torto nelle sue convinzioni, ma di lasciare un minimo uno spazio di possibilità di vedere in parte la verità. E con questo atteggiamento confrontarsi non per convincere che l'altro sbaglia, ma avere un confronto che alla fine lascia edificati entrambi. Paolo ha riassunto tale atteggiamento con questa ingiunzione. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. Teniamo presente che l'importante non è vincere una battaglia nella conversazione, ma lasciare il nostro interlocutore con il desiderio di voler parlare ancora con noi. Questa è una vittoria e un risultato non da poco. Purtroppo, i deboli in ogni conversazione vogliono avere sempre l'ultima parola, e non sono soddisfatti se il loro interlocutore non si trova in difficoltà. Occorre precisare che mettere in difficoltà il prossimo in un confronto non è sempre sbagliato, perché se c'era uno che metteva in difficoltà il prossimo era proprio Gesù, il Figlio di Dio. Ma una cosa è mettere in crisi il prossimo per farlo riflettere, altra, per volerlo colpire. Infatti, la mia esperienza è che il mio interlocutore è attento e pronto all'ascolto quando nel discorso iniziale demolisco i suoi presupposti sbagliati e, in seguito, chiarisco dove sta la verità. È impossibile pretendere che una persona sia pronta ad accettare Cristo come il suo Salvatore se non ha nessuna visione di essere incamminato all'inferno. Così non accetterà Cristo Gesù come suo Signore, se ha come Signore o padrone della sua vita un capo religioso. Stessa cosa se uno non accetta la Bibbia come parola di Dio ispirata parola per parola. Difficile se non impossibile fargli comprendere che questa è la sua autorità in materia di fede e di condotta. 8. Se UN crede Nuovo Testamento e ha una in Nuovo Testamento e interpretazione diversa dai conduttori, è chiamantico testamento a non imporre il suo più Nuovo Testamento di vista. Filippesi 3.15. Dio ha stabilito in ogni comunità dei conduttori aventi autorità di stabilire regole morali e di vita. E ogni credente è chiamato a seguire tali direttive. E poiché i conduttori sono degli uomini limitati, va da sé che ogni comunità avrà regole e dottrine diverse. Anche se questo viene considerato in modo negativo da alcuni, è un dato di fatto che scaturisce inevitabilmente dal nostro essere umani. Prima di essere cristiani, siamo degli esseri umani. Tutti siamo condizionati dalla cultura, dall'età e dalla conoscenza, per cui è assurdo pretendere che un americano, un russo, un africano e un europeo leggano e interpretino la scrittura esattamente nello stesso modo, anche se appartengono alla stessa confessione di fede. Perfino nel cattolicesimo, dove vige una struttura teologica più rigida, si possono trovare pastorali diverse nei paesi africani, come l'ammissione del divorzio. Per cui non serve a nulla puntare il dito accusatore verso conduttori che la pensano diversamente, anche perché se tu diventi conduttore, per forza di cose condurrai la comunità secondo i tuoi punti di vista, i quali saranno in contrasto con altri. Se poi dirai che sei largo di vedute per non offendere nessuno, troverai chi ti condanna proprio perché sei largo di vedute. La diversità è inevitabile. Detto questo, quando un credente interpreta diversamente dai conduttori di chiesa alcune verità della scrittura, è cosa saggia e un atto di amore tenere per sé le proprie opinioni. A nulla serve la contesa teologica quando questo tende a dividere una comunità. E Cristo Gesù chiederà conto in giudizio a tutti quelli che avranno diviso delle comunità per aver imposto il loro punto di vista. La parola di Dio è molto severa al riguardo. L'Eterno odia queste sei cose, anzi sette sono per lui un abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che versano sangue innocente, il cuore che escogita progetti malvagi, i piedi che sono veloci nel correre al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. PR 6.1-6.19. Se prendessimo sul serio l'odio di Dio, i credenti avrebbero il timore di Dio e piuttosto di dividere una comunità si metterebbero un bavaglio sulla bocca, ricercando con umiltà ciò che può essere utile a tutti, perché il regno di Dio consiste in potenza. 1 Co 4.13. E l'amore è la potenza che tiene unito il regno di Dio. 9. Se per uenni crede Nuovo Testamento e non vi è possibilità di accordo con gli anziani, o accetta L.A., pluralità di opinioni, e rimane adeguandosi agli altri tenendo L.A. propria I.D.A., oppure è opportuno che se ne vada. Il discorso di andarsene da una comunità sembra poco spirituale, ma chi veramente ama non desidera in nessun modo ledere la persona oggetto del proprio amore, perciò piuttosto di creare conflitti o lacerazioni in seno ad una assemblea, trova più opportuno separarsene. E qui occorre fare una precisazione. Vi è differenza tra separazione e divisione, perché mentre la prima è lecita e a volte doverosa, la divisione è sempre sbagliata. Infatti la separazione è il prendere atto che non vi è accordo. E ognuno segue la propria strada in armonia e serenità, come nel caso di Paolo e Barnaba, quando ebbero un aspro dissenso in merito al prendere con loro Marco. Mentre la divisione è una separazione che lascia gli animi inaspriti, feriti e offesi, col desiderio di non volersi più unire o vedersi. Quindi, quando non vi è accordo, dopo vari confronti, la cosa più saggia è che ognuno segua la sua strada e le sue convinzioni. 10. Lo scopo ultimo di ogni conoscenza è agire con amore. Quell'amore come è descritto in 1 Corinzi 13. Infine, rimane e rimarrà sempre utile ricordare che non vi è problema di nessun genere che non si possa risolvere mediante l'amore. Purtroppo, anche questa verità ormai non è più creduta, perché in nome dell'amore si sono visti i comportamenti più atroci e assurdi. Ma questo è dovuto non tanto al vero amore in sé, quanto all'opinione sbagliata che si ha di esso. Dobbiamo essere grati a Dio che ha voluto che noi avessimo un quadro esatto di cosa sia il vero amore, il quale troviamo scritto nella lettera a dei credenti di Corinto, credenti, dobbiamo sottolinearlo, che non andavano d'accordo. Paolo lo ha descritto in questo modo. L'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Non c'ira e nulla da aggiungere se non di mettere in pratica. Poi ottenere di conseguenza un buon rapporto fraterno sarà la prassi normale. Come è normale per un corpo sano muoversi armoniosamente? Novembre 2009. Ellero.